La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura, possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano 15 anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. L'articolo 106 riguarda le assunzioni dei magistrati. Sappiamo che al mondo si può diventare magistrati in maniera differente, si può diventare magistrati per nomina politica, si può diventare magistrati addirittura per elezione, come accade ad esempio negli Stati Uniti d'America, oppure si può diventare magistrati per concorso. L'Assemblea Costituente ha scelto questo terzo modello, cioè il modello del concorso. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. Perché? Perché il concorso garantisce al massimo il principio di imparzialità, già sancito negli articoli 97 e 98 per tutta l'amministrazione, ma garantisce anche la preparazione tecnica del magistrato. Il magistrato, in fondo, è un esperto di diritto, un applicatore della legge. Ecco allora che deve essere un conoscitore della legge. Ed ecco che il concorso in magistratura diventa il modo per selezionare in maniera imparziale esperti di diritto. Il concorso in magistratura, infatti, ancora oggi, ma da decine d'anni, è sempre un concorso che si basa su prove di diritto, su tre temi: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, in maniera da poter valutare e scegliere i competenti. Dopodiché, oggi abbiamo anche una scuola di magistratura che nei primi anni delle funzioni affina le qualità giuridiche e prepara a fare il magistrato, ma il principio base è quello del concorso. La Costituzione consente magistrati onorari, ma come eccezione nominati per casi eccezionali, e soprattutto ammette una riserva in Cassazione per professori universitari e avvocati anziani con 15 anni di esercizio, perché l'ultimo comma dell'articolo 106 consente che il Consiglio Superiore possa prevedere delle chiamate direttamente a consigliere di Cassazione per professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con 15 anni di esercizio. Cioè è una riserva ulteriore di alta qualificazione, di alta competenza, di persone con meriti insigni, come dice la Costituzione, meriti insigni che quindi vanno ad integrare il massimo organo della magistratura, la Corte di Cassazione.